Ciao. Ciao Matteo. Ciao. Ciao Federico, ciao Flora. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Basta con quel telefono, mamma ti ciao. Ciao.